E secondo te è il suo momento. Ci avviciniamo alla console. Ladies and gentlemen, signori e signori, alla mia destra, col peso di 45 libbre, il campione in carica, l'unico uomo che ha battuto Rocky Balboa. Accendi le luci, Light J, c'è forza! Cielo, chi non batte le mani non fa l'amore per 4692 anni. Le mani al cielo a tempo! Capello lungo, in console. Segui il movimento delle sue mani. Capello lungo, fisico, atletico. Di fronte a te, Vortex DJ. Take this motherfucker out. Follow me. This is DJ. Attention please. Dog in console, grazie. DJ. DJ. Questo disco è dedicato ai ragazzi con le mani al cielo, quelli che amano la musica di Vortex. This is Shock. Anche questa notte Vortex sta cercando una fidanzata. Sta cercando una fidanzata con le mani al cielo. Alza le mani al cielo, questa è una rapina. Halloween, la notte delle streghe. DJ! Saltellare con le mani! Una notte diversa, una notte piena di techno. One.

Danilo, che è qui con noi questa notte a sorpresa. Adesso si va a bere qualcosa e io arrivo. Carmini, ok? E sono arrivato, eh? Potevo lasciarti da solo? ABJ urgentemente in console. ABJ in console, grazie. Questo è il vortice delle console. Vortex DJ. Direttamente dalla capitale d'Italia. Direttamente da Roma. Ci vogliono tutte le mani al cielo se lo stai ascoltando. Su le mani, sveglia, show! 5 minuti e arrivo. Un quarto d'ora e arrivo. L'ho detto a tutti. Impazzire! E Vortex DJ! E Vortex DJ! Vortice! Vortice! Lupin il nano urgentemente in console! Il nano in console, grazie! Vieni, vieni, vieni, vieni. Saluta Gabri, Pietro Ligure, ciao! Thomas Toro, MC Sere, Gloria Sottoscioppo. Con legna e grugliasco sotto shock. Il nano! Ed è arrivato. Andrea, Daniel, Simo, Ste e Ande. Borgo Vittoria, Torino. Ciao! E adesso ci vogliono tutte le mani al cielo. Chi non batte le mani è contro di noi. Dai Vortice! Le corde e Fabri, un saluto a tutti. Yeah. Gabri, Luca, Mollino, Super Shop. Gli amici Ronco, Scrive, Ste, Giacomino, Ricky, Mirko, Raffa e Joe. Ciao! Albi, Lollo, Marco, Racconigi, welcome! Carlotto, Renato, Lady! Fede, Villastellone, sempre sotto shock. Ma me lo fate sentire un applauso per Vortex DJ? C'è un pazzo criminale! È un matto da legare! Morte! Un attimo! Marco Racconigi, ciao! Ricky Genova, Fabietto Asti, sotto shock! Cuneo, sotto shock! Bacio al mio amore Noemi e a miei amici Sommariva del Bosco, ciao! Andre, Cristian, Vincenzo, Burgo, Vittoria, ciao! Ragazzi, se venite tutti così, no, eh? Scendete e ci rivediamo fra 5 minuti. Madonna mia! Vi prometto che arrivo, eh? La pazienza e la virtù. No. Arrivo, te lo giuro. E musica e magia ti porteranno via. Speciale Art Forum. E allora piano piano tiriamo qua dentro. Allora, segui il movimento della console. segui Vortex DJ. Chi non lo fa è contro lo show. Shocks of the show. Shocks of the show. Speciale Vortex DJ, la musica, togli la voce e poi l'energia. Prendimi per mano, portami via. Vortex DJ della vera, perché a volte qualcuno ti dice che sei un pezzo di merda solo perché ti metti un paio di pantaloni stretti o perché ti rasi i capelli, ma non è vero, perché noi abbiamo un cuore, noi abbiamo un'anima, noi facciamo l'amore con la musica. E allora i tecnofolli, i guerrieri, quelli veri, fuori gli accendini e i display dei telefonini. Chi non alza almeno una fiamma al cielo è contro di noi, non fa parte della grande famiglia Shock. Noi siamo la differenza, noi siamo tendenza. E allora i tecnofolli d'Italia, urlo libero! Speciale Vortex DJ, speciale al forum. Dedicato a Spina, Piazza Villa, Villa, Villa. I pazzi chiude, saluta, tenere il fatto breve. Vicky e pezzo di Alessia, ciao! Stefano, Domenico, Pietro, sotto sciopero. Massi e Pillo, Leini, welcome! Messaggina sotto sciopero. Saluto Erdu e Kevin di Savigliano, ciao! Fabri, Silvia e là sotto siete sciocchi. Gabri Spigno sempre presente sotto sciocchi. Un saluto a Mario di Marene, ciao! Valdissero e Cresene sempre presenti sotto show. Un saluto agli amici di Asti, Ardiano, Mario, ciao, Andrea! Nano e Nana, Borgo Vittoria, sempre sotto show. Andrea e Simone, ciao sotto show! Un saluto da Gaia a Viola! Un attimo arrivo ragazzi! Con la calma, per favore, sto lavorando anch'io! Gaia, la tua sorellina ti ama tanto! E io con questo disco volevo vedere Fra e Bea in centro pista! Le due ballettine! Prometto che il prossimo è il vostro, ok? Fuori la voce, dai! Dopo, veramente, ve lo giuro! Questa notte non è qui con noi, però lui da lassù ci vede, è mancato da poco, per lui era casa sua questo locale e io glielo voglio dedicare con tutto il cuore. Ale Ferriera, ciao! E allora alza le tue mani al cielo, guerriero! Più non ce n'è. Al primo saluto che mi vedete fare tornate. Vita è una sola! E allora, prima di fare cazzate, pensaci! Ragazzi, noi ve lo diciamo con tutto il cuore. purtroppo tanta gente ci sta provando a mettere i bastoni tra le ruote. Ci vogliono far chiudere prima, dicono che siamo cattivi, dicono che dopo le due non ci vogliono dare più alcol. A noi non ce ne frega un cazzo, perché la nostra vita è una sola. E allora questa notte ci facciamo sentire. Shock sotto shock! Shock sotto shock! Vortex DJ, ci sei? Salutarvi e ringraziarvi, Shock. Lo salutiamo con le mani che battevano al tempo, Shock. Dai! Urgentemente il Paris in console, grazie. E le mani per magia a tempo, dai! I wanna jump you, baby. You drive me crazy. Yeah. Ok. Questo era il suo modo di salutarvi e ringraziarvi, Shock. Me lo fate sentire, un applauso per Vortex DJ, la capitale d'Italia, eccola qua.